Italia in controluce. La narrazione e la cronaca, quella che giunge dalle città e dai paesi italiani. Questo è Alto è Italia in controluce. Benvenuti da Daniele Biacchessi. Apriamo con un viaggio notturno tra i musei aperti di Roma, l'arte, la cultura e la notte di Roma. Elisabetta Fiorito. Io, Marco Aurelio, devo a mio padre, l'imperatore Antonino, la mansuetudine e la fermezza irremovibile nelle determinazioni prese dopo attenta indagine. L'assenza di vanagloria per quelli che sembrano onori. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle Tamerici salmastre d'arse, direbbe il poeta, e piove sulla città di Roma, constatiamo noi durante la lunga notte dei musei. Eppure le persone non rinunciano all'opportunità di visitare mostre e gallerie gratis dalle 20 alle 2 di notte. In Campidoglio i visitatori sono accolti dalla voce di Marco Aurelio, dalla statua, in realtà una copia, illuminata in piazza. Come Marco Aurelio, imperatore di Roma dall'8 marzo dell'anno 161 al 17 marzo del 180. Dai musei capitolini aperti che ospitano durante l'evento 13.000 visitatori. Vigile, quanta gente è arrivata? Tantissima. Ma l'ha mai vista tutta questa gente qui in Campidoglio? Sì, altre volte, ma stasera è molto tanta perché c'è con la pioggia e tantissimo. E dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Ma io credo che sia un grandissimo successo, fa impressione vedere nella notte gente in fila sotto la pioggia. Il trend è superiore a quello dell'anno scorso, ripeto, nonostante la pioggia. E questo dimostra che l'idea di passare una notte in un museo a contatto con l'arte, con tanti avvenimenti, è un'idea che piace e che sta funzionando molto bene. C'è un nuovo boom di Roma rispetto anche alle altre città italiane, anche sul teatro, sulla cultura? Sì, un nuovo boom e un boom anche di carattere turistico. Noi nei primi 3 mesi di quest'anno abbiamo superato anche i record del 2007, quindi Roma si sta rimettendo in movimento dal punto di vista turistico e dal punto di vista culturale, perché le due cose sono strettamente connesse, e credo veramente che ci sia grande suggestione, grande voglia di cultura, grande voglia di reagire alla crisi, proprio dimostrando una forte passione civile e culturale. In tutto almeno 200.000 visitatori di questa seconda notte dei musei nella capitale, 170 eventi, 80 spazi culturali aperti, per un trend in crescita rispetto allo scorso anno. Alla Rapacis, concerto per piano di Stelvio Cipriani e mostra di Fabrizio De André. Per la mostra di De André, è gratis, che devo dire, mo mi sta piena una specie di emozione dentro. Oltretutto io abito a Piazza Fabrizio D'André. Io comunque D'André lo seguo da tanto, cioè da quando sono nato. Alla Galleria di Arte Moderna, concerto allestimento luci Gnam Rethink. Ma c'è chi aspetta almeno un'ora sotto la pioggia per vedere la mostra di Edward Hopper al museo di Via del Corso. È un'oretta e mezza all'incirca, non è stato piacevole. L'unica cosa che mi è dispiaciuta non sono le audioguide, quindi comunque non, di fatto non è il servizio che renderebbero pure di giorno, non è un servizio completo al 100%. Cosa hai visto oltre Hopper? No, purtroppo niente, perché sono arrivata alle 9.20 e siamo entrati soltanto qua, quindi non penso di arrivare a vedere altro ormai. C'è poi chi fa la fila per ammirare la Camera dei Deputati, una visita che comprende anche il passaggio nell'aula di Montecitorio e nel mitico corridoio adiacente, il transatlantico. Aspettavo un po' più piccolo, mi è piaciuto molto perché era la prima volta che venivo, non è venuta, quindi mi è piaciuto molto. Sì. Quindi da quello che vedo in televisione a quello che ho visto oggi? Allora, la camera me l'aspettavo più, cioè in televisione sembrava più grande, e il transatlantico invece è il contrario. Ma non mancano le critiche. Guardi, trovo che sia tenuto molto male però, perché un po' di, non so, un po' di pittura alle pareti, insomma veramente un... Allora, al presidente Fini che cosa dice? Che deve fare un po' di lavori di restauro? Un po' di manutenzione, sì, perché peccato. In realtà è un bel palazzo, ma tenuto male. Le è piaciuto il transatlantico? Sì, moltissimo. Più di tutti però fila per la mostra di Caravaggio alle Scuderie del Quirinale, una coda che arriva fino a Via Nazionale, per quello che si conferma il vero evento dell'anno. Siete accusato di un reato fra i peggiori, signore. Ma se queste stimabili persone credono nella vostra innocenza, chi sono io per dubitarne? Specialmente se vi vorrete fermare da noi per dipingere. Ippolito Malaspina, Gran Valli dell'Ordine. Benvenuto nella nostra isola. Michelangelo Merisi, per servirvi. Italia in controluce. Azione insolito in uno spazio pubblico. Mobilitazioni che possono raccogliere anche centinaia di persone. Sono i flash mob, fenomeno di costume diffuso in tutto il mondo. Il racconto di Maria Luisa Pezzali. Siete in una stazione, un centro commerciale, una piazza e improvvisamente la persona accanto a voi si mette a ballare con la musica a tutto volume, seguita in una complessa coreografia da un numero sempre crescente di passanti. Non preoccupatevi, siete capitati nel bel mezzo di un flash mob. Mobilitazioni di massa, brevi e istantanee, per azioni insolite, per lo più nonsense, messe in atto da un gruppo di persone, anche centinaia, in uno spazio pubblico, per poi disperdersi. Provate a digitare flash mob su YouTube e ne vedrete di divertentissimi. Dai passeggeri improvvisamente immobili come statue alla Grand Central Station di New York, freeze flash mob, alle pillow fight, le battaglie di cuscini per strada, fino ai silent rave, i cui partecipanti, dotati di cuffie, ballano nel più completo silenzio, ognuno con la propria musica nelle orecchie. Comparsi per la prima volta a New York nel 2003, i flash mob sono ormai un vero e proprio fenomeno di costume in tutto il mondo. Si sono diffusi in modo virale grazie a internet e ai social network. Sono un fenomeno in sintonia con molti aspetti della contemporaneità, ci dice il sociologo della comunicazione Guido Di Fraia. Sono delle forme di aggregazione che hanno una grossa dimensione ludica e apparentemente antieconomiche, nel senso che sono generate dalla motivazione che i partecipanti hanno a appunto generare un evento che li rende in qualche modo protagonisti, che li consente loro di rompere le dinamiche delle routine sostanzialmente, perché una cosa interessante del flash mob è questa loro proprietà appunto di ridare significato ai luoghi, agli spazi, no? Attraverso delle performance che sono contrarie alle logiche tradizionali attraverso cui invece solitamente si usano quegli spazi. Quindi c'è un elemento in qualche modo di interruzione della quotidianità, un desiderio di protagonismo, questa liquidità in qualche modo, no, dell'esperienza anche sociale, che è un'esperienza disimpegnata, che non coinvolge più di tanto il soggetto. Quindi insomma, una è la possibilità di entrare e di uscire, no, senza che si creino dei legami, delle responsabilità, ecco, quindi insomma una dimensione del ludico sociale molto in sintonia con i nuovi media, con certe dimensioni della rete, con i social network, eccetera. Tra i più recenti di grande effetto si ricorda quello dell'8 settembre scorso a Chicago, in occasione del concerto condotto dalla star della TV americana Oprah Winfrey. Con uno straordinario balletto di massa il pubblico ha spiazzato i Black Eyed Peas in un singolare ribaltamento del punto di vista dello spettacolo. That is the coolest thing ever. Alcuni flash mob hanno raccolto migliaia di partecipanti, a volte per disperdere la folla è dovuta intervenire la polizia. Situazione ripresa dal teen movie italiano del 2007, notte prima degli esami oggi. Un flash mob nudista a Castel Sant'Angelo. Originariamente il flash mob non ha alcuna motivazione se non quella di rompere la quotidianità in nome della libertà di espressione e della creazione collettiva, partecipativa. È un'azione apolitica e aconfessionale. La tecnica però oggi fa gola alla comunicazione pubblicitaria e politica, tanto che sono sempre più diffusi flash mob per il lancio di prodotti, film, eventi. così come per organizzare proteste lampo. Vedi il recente bacio collettivo anti-omofobia in piazza. Ma attenzione ad abusarne, ci dice Alex Giordano di Ninja Marketing, osservatorio sul marketing non convenzionale. Purtroppo uno dei problemi che abbiamo anche nel mondo del marketing, ma soprattutto in Italia, è quello di cavalcare le mode piuttosto che l'efficacia di questi strumenti. E quindi ne abbiamo visti tutti i colori. Se ricordate, fino a qualche anno fa, Second Life sembrava essere la panacea del nuovo marketing, il boom della blogosfera, il video virale, guerriglia marketing, e oggi il tempo del flash mob. Il passaparola si nutre di qualcosa di molto semplice, che è la rilevanza. Cioè io faccio il passaparola, partecipo a un evento se per me è rilevante, non se è autoreferenziale per la marca. Io quello che vedo e che so anche dall'interno è che la maggior parte dei flash mob organizzati sono organizzati con la presenza di comparse. Non ci credo e non ci credete quando vedete questi video in giro di ragazzi con l'accappatoio, cioè, ma figuratevi, pensare che vengono per fare un regalo alla marca o al prodotto è proprio un'ingenua utopia, e vi dico per esperienza che non si verifica mai questa cosa. Italia in controluce, edizione delle 13.30, termina qui. www.radio24.it, tutte le puntate le potete sentire scaricando podcast. Radio 24 Italia in controluce su Facebook, la mail controluce@radio24.it. Un saluto da Daniele Biacchessi.